ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Inizia con due cuori, continua con due fiori, finisce a due di picche, ma quel che conta è... Il due di denari, il due di denari, il due di denari, il due di denari. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Una monetina a te, una te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti, l'altra per sparire. Buongiorno. Buongiorno Deborah, benvenuta a Due di Denari. Allora, a me fanno comodo perché le metto nella macchinetta del caffè, visto che adesso ho ricominciato ad utilizzare le macchinette del caffè dell'azienda da qualche settimana. Ma non tutte prendono i pezzi piccoli? Sì, come no. Ah sì? Sì. Allora sì. Mi devi spiegare qual è, perché stiamo parlando delle monetine da 1 e 2 centesimi. Esatto, perché? Perché siamo partiti così intanto. Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì. Perché mentre tu leggi tutte le mattine religiosamente norme e tributi, sì, io invece leggo religiosamente tutte le comunicazioni che inviano le associazioni dei consumatori. E ieri l'ADUC ci ha ricordato che la Commissione europea ha avviato una valutazione d'impatto sull'uso delle monete da 1 e 2 centesimi. Questa valutazione d'impatto che cosa significa? Una consultazione aperta che è disponibile per contributi dal 28 settembre e durerà 15 settimane e quindi un'ampia gamma di soggetti interessati potranno dire come la pensano sulla circolazione di queste monetine, quindi magari anche io e te potremmo dire la nostra. Dobbiamo ricordare che dal 1 gennaio del 2018 non vengono più coniate in Italia. In Italia, insieme alla disposizione anche, forse che era partita prima del blocco della circolazione e della stampa delle banconote da 500 euro. Sì. Quindi tagli piccoli e grossi via dalla circolazione. E praticamente si era data anche una disposizione affinché si potessero arrotondare i prezzi, mi pare, in Italia, proprio per evitare di dover dare il resto pochi centesimi che pian piano sarebbero diventati sempre più rarefatti in circolazione. Ma l'ADUC dice, ma insomma, negli Stati Uniti i centesimi di dollaro circolano liberamente e non è morto nessuno, per quale motivo noi qua dobbiamo essere più severi rispetto? Adesso magari anche un pochino una questione di igiene, perché meno robine passano di mano in mano. Ma più però che altro, diciamo che la consultazione europea non ha questa finalità, ecco. Ma io sarei contento, sarei più sereno, perché così quando tornassimo a suonare con i Chapter 11 ci tirano non delle monetine di piccolo taglio che è fastidiose, poi vanno negli occhi, ma magari anche l'euro da due euro, anche delle banconote, delle cose così, insomma, che noi ovviamente accetteremo molto volentieri, sempre a fini di beneficenza, scherziamo. Certamente, è vero. E questo, abbiamo cominciato con questa notizia sulle monete, vediamo se indovino, perché oggi è giovedì. Investire informati. Certo, perché il giovedì noi facciamo Investire informati, che è la nostra rubrica appunto di ragionamenti con esperti, operatori del settore sugli investimenti e sui mercati. Ci andiamo in modo approfondito. Esatto, allora due temi oggi, naturalmente poi non mancheremo di ricordarvi la partenza del mese dell'educazione finanziaria, si parte proprio oggi, ma oggi affronteremo due argomenti. Nella prima parte della trasmissione qualche temino di mercato, perché ce ne sono di molto interessanti. Ieri si è chiuso un trimestre in borsa che è stato decisamente turbolento, non solo per le azioni ma anche per le materie prime, per le obbligazioni. Oggi ci concentreremo proprio su alcune di queste classi di investimento. Ci faremo spiegare da un esperto come mai, per esempio, il BTP decennale nei giorni scorsi è scivolato di nuovo ai minimi storici, perché l'oro continua ad accarezzare l'idea di toccare i $2,000 l'oncia e perché il petrolio è di nuovo sull'otto volante in questi giorni. Quindi tre temi importanti che si intrecciano poi con l'andamento dei mercati azionari e alla fine vanno anche a condizionare i nostri risparmi. Nella seconda parte invece ci siamo lasciati, Mauro, suggestionare ancora una volta da una storia che ci ha raccontato un ascoltatore e da lì abbiamo preso lo spunto per dargli qualche istruzione per l'uso. Un ascoltatore che è un po' la storia di molti di noi, che si ritrova, un ascoltatore immaginiamo molto giovane, che si ritrova un piccolo gruzzolo, molto piccolo, che però chiede come cominciare a investire. E allora ne parleremo con un esperto sempre di valore mondiale e vi daremo anche qualche consiglio per sabato 10 ottobre. Cominciate a mettere lì questa data perché c'è sempre un perché. I numeri sono i soliti, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, il numero verde, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Vedo Gianmarco Ferronato che di fianco alla regia ha già un taccuino per prendere appunti, dietro c'è Marco Lombardo che non ha bisogno di prendere appunti perché sa già tutto. Perché li scrive per noi. E allora, giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Allora, saranno anche un po' ballerine queste borse, però piano piano nuove quotazioni arrivano. È molto vivace Wall Street in questo periodo e chiaramente Mauro punta tutto sulla tecnologia. Dopo il fiocchetto di neve di Warren Buffett, una società sulla quale Warren Buffett ha investito molto, lo Snowflake. E poi anche quel gruppo lì sudcoreano che va fortissimo. I ragazzi, sì, quelli che sono pronti a quotare in borsa, come si chiamano? BST. Ah, ecco. BTS, pardon. Ieri in borsa a New York si è quotata un'altra società, si chiama Palantir, sì. È una società high tech, quindi sì. Gestiscono dati, software, adesso non sto a fare una descrizione puntuale perché non sono in grado, però insomma si sono quotati in borsa. Intanto la cosa curiosa è che si sono quotati direttamente in borsa, non hanno fatto la classica IPO, quindi non hanno consentito ad una platea ampia di investitori di prenotare così, dei lotti. Sono esatto. Entrati senza neanche senza bussare. Esatto, e hanno fatto bene perché hanno fatto più 55% nella prima giornata di negoziazione. Ah. E la cosa interessante, la racconta questa mattina Marco Valsania, è una società che ha visto la CIA, quindi l'intelligence americana, tra i primissimi investitori di questo gruppo, ed è un gruppo che ha una lunga storia di controversie e segreti contratti per il governo e il Pentagono, e nonostante questo grigio, alone di mistero, esatto, da cui James Bond che abbiamo esatto, utilizzato, e però insomma, come dire, anche i piccoli risparmiatori si affidano molto volentieri evidentemente a James Bond, perché più 55% in borsa, il gruppo vale già 22 miliardi di dollari. Ma possiamo dire il nome della società? O sarà anche questa una cosa detto, un po' da agente segreto? L'ho già detto. È pure facile, esatto, non è difficile come Snowflake. Palantir. Sì, Palantir, però non ditelo in giro perché non forse sarà Palantir, è una società, no? Non lo so, però non diciamolo troppo in giro, Deborah, non vorrei che poi, sai, con queste frequentazioni che hanno, questi clienti che hanno, non vorrei passare un brutto quarto d'ora. Però volevo anche segnalare un'altra cosa, e prego, lo richiama sempre Marco Valsania sul Sole. La società ha dei trend di crescita molto importanti, ma ancora i bilanci continuano a chiuderli in perdita. Quindi io anche ad approcciare in borsa a certe società ci penserei una decina di volte. Quindi non solo per il fatto che è la CIA che investe, ma anche perché il bilancio è traballante. Noi invitiamo sempre ad investire, se proprio vogliamo avvicinarsi alla borsa, almeno su società solide. Allora, passiamo oltre perché dobbiamo segnalare che Poste Mobile, per rimediare ai disagi causati dai disservizi, regala 100 giga ai suoi clienti, 100 giga di navigazione gratuiti, perché nella giornata di lunedì 28 settembre ci sono stati un po' di problemi nell'utilizzo di Poste Mobile, e allora ce lo ha segnalato la stessa società. C'erano state molte lamentele anche da parte dell'associazione dei consumatori, e così è partita questa iniziativa dedicata ai clienti privati e ai titolari di partita IVA che siano in possesso di una Poste Mobile ricaricabile. Attenzione, quindi solo questo tipo di clientela avrà questo regalo. Senti, no, volevo tornare per un attimo a Palantir, perché a dimostrazione della nostra enorme ignoranza sulla fantascienza e sul fantasy, i romanzi fantasy, sappi che Palantir è un nome che deriva dal ciclo di romanzi di fantasia di Tolkien, Il Signore degli Anelli. Non sapevamo né io né te. No, ecco, molto bene. Bocciati su tutta la linea. L'arte è lunga e la vita è breve, dicevano i latini, e ti assicuro che erano personcine che la sapevano molto lunga. Bene, una rettifica su una notizia che abbiamo dato ieri. Per la verità, io parlando sempre troppo velocemente mi sono impaperata ad un certo punto, non me ne sono resa conto, me ne scuso con i diretti interessati. Abbiamo raccontato di questa multa inflitta dall'antitrust a Compass, che è una società di credito al consumo sanzionata per pratica commerciale scorretta, perché pratica l'abbinamento forzoso fra prodotti di finanziamento e prodotti assicurativi. Parlando come solito velocemente invece di Compass, ieri ho detto Consap, che è invece la società del Ministero dell'Economia che gestisce tutti i vari fondi, come per esempio quelli per la casa, per la moratoria dei mutui, eccetera. Sono signori che fanno tutt'altro, me ne scuso con i diretti interessati. La società sanzionata è Compass, società privata, quindi non Consap, ente pubblico, un'altra cosa. Grazie Deborah, puoi alzare adesso le ginocchia dai ceci. E invece passiamo a tutto quello che succede oggi, 1 ottobre, perché oggi giornatona. Allora, già Deborah vi ha ricordato, oggi comincia il mese del risparmio. Sarà un mese del risparmio, questo il 2020, molto particolare per tante ragioni. Ovviamente perché molte iniziative dovranno svolgersi, si svolgeranno da remoto con connessioni digitali, quindi sarà un notevole cambiamento rispetto a quello che abbiamo sperimentato negli anni passati. Ma poi sarà un mese particolare perché il tema centrale di questo mese del risparmio sarà la previdenza, la pensione, soprattutto per diffonderla anche tra le generazioni più giovani che si avviano presumibilmente verso carriere più movimentate, magari più discontinue di quelle dei loro padri, dei loro fratelli maggiori, e allora è importante che abbiano anche contezza, di consapevolezza di come potrà essere il loro futuro pensionistico. Oggi tutto sarà celebrato da un evento presso il Ministero dell'Economia, è un evento dove appunto già si comincerà a parlare delle pensioni. Se volete, noi martedì abbiamo proprio dedicato parte della nostra puntata di Due Denari, l'alfabeto del risparmio, ai fondi pensione, alla pensione, quindi potete riascoltare collegandovi col nostro sito www.radio24.it la puntata di martedì scorso. Questo è l'evento istituzionale naturalmente, ma da oggi in realtà il calendario è ricchissimo di iniziative su tutto il territorio, ma potremmo dire che la rete sarà ricchissima di iniziative, perché magari fisicamente di eventi ce ne saranno un po' meno rispetto allo scorso anno. Me ne segnalo un altro, lo coordino io oggi pomeriggio, quindi faccio concorrenza diretta all'evento del Ministero dell'Economia. Mauro, l'Istituto Bruno Leoni organizza lo stesso questo dibattito che condurremo con un webinar, Educare oltre il disastro, la formazione finanziaria che ci serve dopo la pandemia. Parleremo di giovani, di scuola, di quanto è importante cominciare a formarsi da quando si è naturalmente molto giovani. Lo dicevamo anche nei giorni scorsi, tra l'altro i giovani sono anche in grado molto spesso, se si appassionano a questa materia, di parlarne con grande consapevolezza all'interno del nucleo familiare, dando così un po' anche una responsabilizzazione complessiva a tutta la famiglia su questi argomenti. Per cui questo webinar, se volete, potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook dell'Istituto Bruno Leoni. Un'ultima notizia la dedichiamo al mattone, perché oggi a Milano c'è la prima giornata nazionale della casa. È un evento organizzato a Scenari Immobiliari da casa.it presso il centro congressi della Fondazione Cariplo. Si svolgerà durante tutto il giorno, interamente dedicato a tutto quello che ruota intorno alla casa, quindi servizi ad abitare, le novità fiscali, le normative, gli investimenti, insomma le case per chi non ha case, quindi adesso si usa anche dire il social housing, e sono alcuni dei molti temi che verranno affrontati. Ci saranno dibattiti e molti relatori, molti esperti della materia a discutere. Cara Deborah, qui il tempo fugge e l'uomo non se ne avvede. E quindi cosa vorresti dire? La donna sì. E allora ti invito per favore a presentare il nostro primo ospite della giornata, che già abbiamo in collegamento, ma vedo dalla scaletta predisposta dal Solerte Lombardo che abbiamo prima un DDD, cioè un dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Il sistema pensionistico sarebbe semplicissimo. Allora, minimo 40 anni di lavoro, diversamente, poi 65 per gli uomini come vecchiaia e 60 le donne, perché è giusto che sia così, 60 le donne, tutto il resto non si va in pensione, neanche con ammortizzato, niente, non si va in pensione. E soprattutto la pensione calcolata tutta sul contributivo, e il sistema reggerebbe benissimo, ci sarebbero pensioni eque. Due di denari, secondo me non è che la gente vive di più, o meglio vive sì di più, ma secondo me è più in forma per lavorare in tarda età, nel senso che se prima a 60 anni eri vecchio, adesso a 60 anni sei, non dico che sei giovane, ma sei ancora abile per il lavoro. Investire informati. Sì, abbiamo avuto la coda di una puntata di questa settimana, il tema pensionistico, come lo tocchiamo? Lo tocchiamo, naturalmente tocca le corde più sensibili di tutti gli ascoltatori. Tutto questo come, mese come sarà, il portafoglio. Tutto questo mese sarà molto, molto costellato da questioni previdenziali, quindi questo sarà solo un piccolo assaggio della prima giornata. Allora Mauro, quando io racconto la borsa mi concentro quasi esclusivamente sull'andamento delle società quotate, degli indici eccetera, però naturalmente ci sono tante altre classi di investimento che si muovono e molto spesso fanno anche, compiono delle azioni di disturbo alla classe di investimento della quale raccontiamo in prevalenza. Mi riferisco intanto al titolo di Stato, il BTP decennale nei giorni scorsi ha toccato per un soffio il suo minimo storico che era stato toccato in termini di rendimento un anno fa, ad ottobre dello scorso anno, era arrivato allo 0,87%, questa settimana in un'asta è andato allo 0,88%. Poi il petrolio, ti ricorderai il rovescio di aprile? Caspita, era addirittura andato in negativo, cioè per oltre $30 infatti, e un po' sulle montagne russe chiaramente con questa crisi economica gli investitori dicono ma qua se i consumi continuano ad essere stagnanti, la domanda frena, l'OPEC non vuole rimodificare i tetti produttivi e il petrolio in questi giorni è tornato di nuovo a far parlare di sé, a New York è sotto i $40 al barile. L'oro ad agosto ha toccato i $2,000, adesso è sceso, ma insomma qua continua a correre, ma non è un bene rifugio, con le borse che corrono perché corre anche l'oro. Abbiamo dovuto chiamare un esperto che ci spiegasse queste tre cose stamattina. E naturalmente un esperto di valore mondiale, perché qui a Due di Denari, lo sapete, non scendiamo mai al di sotto di questo livello. Diamo il benvenuto, anzi il bentornato, perché già è stato nostro ospite, a Maurizio Mazziero di Mazziero Research. Buongiorno, buongiorno Mazziero. Buongiorno, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, ci aiuta a capire un po' come decifrare queste cose che così ci colpiscono noi risparmiatori ignari, per così dire. L'oro, il petrolio, le materie prime, è una cosa di cui possiamo fidarci, alla quale possiamo guardare per investire, o invece non è conveniente, è solo per, diciamo così, i solutori più abili, si direbbe su una nota rivista? È una bella domanda. Allora, direi cautela per il petrolio, perché diciamo che l'andamento della domanda si sta normalizzando in qualche misura, nel senso che stanno riprendendo soprattutto nell'Asia i voli, stanno riprendendo le attività, quindi si consuma più petrolio, però diciamo abbiamo passato un paio di trimestri con elevato surplus e quindi le scorte è vero che calano, ma sono ancora ingenti, quindi diciamo il petrolio io penso che continuerà ad oscillare in quella zona così un pochettino grigia tra $37 e $43 per quanto riguarda il WTI quotato a New York. L'incertezza è continua giorno per giorno, infatti le quotazioni tutto sommato passano dei momenti estremamente volatili dove si portano agli estremi di queste fasce di oscillazione e momenti come nelle ultime due settimane in cui stanno proprio a cavallo dei $40. Passiamo all'oro. Beh, l'oro è un bene di rifugio per eccellenza, chiaramente il superamento della zona di $2,078, siamo arrivati come massimo di tutti i tempi, beh, è innescato una serie di prese di beneficio, quindi vendite di quelli che dei fortunati insomma che avevano cavalcato questa forte risalita. Due livelli da tenere a mente: $1,865 l'oncia, che è il punto che ha fermato la brusca caduta dopo aver toccato i massimi di tutti i tempi, e il $1,921 l'oncia, che è il livello del precedente massimo, del precedente record che era stato segnato nel settembre 2011. Ecco, in questo momento, prego. No, questa cosa dell'oro però mi colpisce, perché sai Deborah, uno pensa che l'oro sia una cosa molto stabile. Questo che ci sta raccontando invece Mazziero contraddice un po' il sapere comune, il sentire comune. Ci aggiungo anche la relazione con il dollaro, Mazziero, che spesso non viene adeguatamente considerata. Vale per l'oro o per tutte le materie prime? Certamente, sicuramente sì, tenendo presente che non è proprio vero che sempre e costantemente c'è una correlazione inversa, cioè si muovono in maniera antitetica fra loro. Ci sono dei momenti in cui questa correlazione inversa, cioè un apprezzamento del dollaro fa deprezzare le materie prime e viceversa, una svalutazione dell'oro fa apprezzare le materie prime, però ci sono dei momenti in cui si aggancia a questa relazione, dei momenti in cui ne risulta escluso. In questo momento l'oro è intorno a $1,900 l'oncia, da guardare estremamente con attenzione il 1921, che come ripetevo è quel livello dei massimi del settembre 2011, perché il superamento spingerà poi le quotazioni, diciamo sarà una chiamata nuovamente agli acquisti per portarsi nuovamente in quella zona di 2078. Naturalmente abbiamo dato queste indicazioni per gli appassionati di trading, certamente. Ma noi per il piccolo risparmiatore, che è colui che segue prevalentemente la nostra trasmissione, suggeriamo di stare distanti da tutti quei derivati che puntano sull'andamento dell'oro, ma se proprio si vuole investire in questo mercato a cui va riservata una piccolissima porzione del proprio portafoglio, ci sono strumenti adeguati che proteggono e arginano un pochino tutta la volatilità anche di questa classe di investimento, di questa materia prima. Quindi attenzione, abbiamo dato questi livelli perché c'è un professionista di questo comparto, un osservatore specializzato, che è in grado di intercettare delle dinamiche un po' più dettagliate rispetto ad un comune risparmiatore. Com'è che lo chiami tu, Mauro? Noi comuni mortali? Noi comuni risparmiatori. Chiudiamo in crescendo, verrebbe da dire, anzi in diminuendo, i titoli di Stato, Mazziero, che calano. È una buona notizia per i conti pubblici, cioè vorrà dire che come Stato paghiamo meno interessi, dobbiamo pagare meno interessi, questo va bene, però è un po' sorprendente per certi versi, no? È sorprendente, però se andiamo a vedere, di fatto siamo ritornati proprio nella zona dei livelli pre-Covid, quindi è un trend di discesa dei rendimenti che è cominciato da maggio, da quando noi finalmente siamo usciti da quella fase di lockdown generalizzato, ed è continuato. Qual è la ragione? Beh, la ragione è il fatto che la BCE sta comprando enormi quantitativi di titoli di Stato, non solo i nostri peraltro, ma di tutta Europa, e chiaramente c'è una forte pressione di acquisto che fa abbassare i rendimenti. Teniamo conto che la BCE in questo momento, la BCE o per la verità Banca d'Italia, sta detenendo qualcosa come il 21% del circolante dei titoli di Stato italiani. Allora, stavo guardando alcuni messaggi degli ascoltatori. Uno scrive: ma come no, l'oro oscilla, ma scusate, che cos'è che non oscilla? Poi fate questo intervento proprio nella settimana del risparmio, meno male l'intervento riparatore che ho fatto adesso alla fine, appunto suggerendo agli ascoltatori di non stare ad esasperare i livelli tecnici che Maurizio Mazziero ci dava. Ma insomma, allora, se le facciamo, perché le facciamo? Se non le facciamo e non vi occupate mai di oro, di materie prime e di altro, signori miei, come la fai la sbagli? Insomma, poi c'è l'altro proverbio che mi piace un sacco. Quale? No, sbaglia chi fa. Chi fa sbaglia, chi quello fa, lì. Esatto. Sì, chi non fa non falla, si dice anche. Esatto, chi non fa non falla. Ma esatto. Invece noi siamo gente che fa, e allora ringraziamo Maurizio Mazziero di Mazziero Research. Grazie, dottor Mazziero. Grazie a voi, buona giornata. Invito gli ascoltatori ad andare a guardare sul sito di Mazziero Research, perché fanno un'analisi, una proiezione mese su mese molto puntuale sull'andamento del debito pubblico italiano. Quindi sono in grado di dire con una precisione veramente svizzera, oserei dire, anche ribadire, quale sarà il livello del debito pubblico, proprio sulla scia dei titoli in circolazione, quelli che scadono, investimenti eccetera, quello che sarà a livello mese per mese. E questo diventerà molto importante nei giorni a venire, perché entriamo adesso con il mese di ottobre nella stagione della manovra. Ma intanto vediamo cortesemente, Deborah, certo, come vanno le borse. Certo. Basta con questo sessismo che bisogna sempre identificare le donne per l'aspetto fisico. Facciamolo per esempio su Mauro Meazza. Perché è stato assunto qui a Radio 24? Brizzolato. È bello. Bello. Brizzolato. Diciamo che Mauro Meazza lavora a Radio 24 perché è bello. Bello e monello. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta di denari. Buongiorno, ma io mi sento dare delle notizie sulla borsa di società che valgono miliardi e miliardi di dollari con il bilancio inaffidabile, ma ve ne rendete conto in che marasma ci siamo? Possibile che nessuno gli possa mettere dei paletti? Il Palantir, detto facile per chi non ha dimestichezza, è una sottospecie di sfera di cristallo che ti permette di vedere qualsiasi cosa tu stia cercando in qualsiasi punto del mondo. È interessante vedere come una ditta intrallazzata con il governo e le cui azioni sono state acquistate dalla CIA abbia scelto questo nome. Salve, mi chiamo Marco. So che non è la vostra politica dare consigli di questo tipo, ma prima di farmi rubare tutti i soldi da qualche sito di brokeraggio, chiedo a voi, esperti di fama mondiale, un consiglio su una piattaforma su cui fare trading online. Mi interessa perché i miei nonni mi hanno regalato 2000 euro e mi hanno detto di farli fruttare. Visto che mi piace studiare e ne capisco di computer, vorrei provare questa nuova avventura. Ci sono tante piattaforme, ma non so decidermi. Voi dove comprate e vendete azioni? Grazie anticipatamente da un vostro fedele ascoltatore. Allora, prima di tutto non diamo sto dispiacere ai nonni di fare una sciocchezza con questo piccolo gruzzoletto che chissà quanto magari avranno faticato anche a mettere da parte per regalarlo al nipote. Ci siamo a lungo chiesti quanti anni potesse avere Marco, volevamo farlo intervenire in diretta, non ha risposto al nostro invito, però ci è piaciuta lo stesso questa sua storia e l'abbiamo presa come pretesto per farci un piccolo approfondimento. Beh, poi il 1° di ottobre comincia il mese di educazione finanziaria, quale migliore occasione per andare a parlare, non, se mi consenti Deborah, non noi come esperti di fama mondiale, no, noi non abbiamo nessun tipo di conto aperto su nessuna piattaforma, chiariamolo molto rigidamente, ecco. Ma invitando un esperto di fama mondiale, questo sì, come sempre qui a Due di Denari. E allora abbiamo coinvolto un consulente finanziario, Emanuele Provini. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno a voi. Nella categoria degli autonomi indipendenti. Esatto. Indipendente. Grazie della precisazione. Allora ne do un'altra di precisazione. Queste cose, cioè il consulente finanziario indipendente, gli strumenti di investimento, eccetera, eccetera, vi saranno tutte molto più chiare quando il 10 di ottobre vi recherete in edicola e insieme al Sole 24 Ore avrete l'imperdibile opportunità di acquistare il secondo volume firmato da Deborah Rosciani e dal sottoscritto Mauro Meazza. Abbiamo scritto un libro? Scritto un libro a tua insaputa, forse. Si chiama Investire è facile anche nei momenti difficili. Ecco, speriamo e quindi, che renda facile investire un po' per tutti. Per chi pensasse che lo smart working per questi due, in realtà Mauro è sempre in ufficio, io stavo a casa, per chi pensasse appunto che sia stata una passeggiata, in realtà abbiamo lavorato tanto, siamo andati in onda regolarmente e abbiamo persino prodotto il nostro secondo bambino di carta. Ottimo. Scuserete questo promo, questa autopromozione. Provini, che dobbiamo dire a questo ragazzo? A parte che io gli direi come prima cosa far fruttare il denaro, magari può anche voler dire, non so, iscriversi a un utilissimo corso di qualcosa, se gli piace, sì, il computer, anche a un corso di lingue, che ne so, imparare una lingua straniera potrebbe essere far fruttare il denaro, però dica lei invece sul trading, sugli investimenti, lei che è più esperto. Ma prima di tutto consiglierei a questo giovane ragazzo innanzitutto di ringraziare tanti nonni, perché comunque oggi i nonni che ci permettono e ci regalano del denaro è sempre importante. E poi secondo consiglio poi di andare in edicola a comprare il vostro libro che servirà sempre. Grazie. Spenderà molto meno, quindi... Sicuramente. No, è chiaro che nella domanda di Marco, che mi sembra che di capire che è un giovane ragazzo, utilizza dei termini che mi hanno colpito, ad esempio anche che lei ha ripetuto il farli fruttare. Che cosa vuol dire fare fruttare dei soldi? Vuol dire anche proteggerli? Chiedo a Marco. E soprattutto, dato che il collegamento è stato molto interessante fin dall'inizio, cioè a ottobre, il mese dell'educazione finanziaria, oggi dobbiamo capire perché investiamo dei soldi, quali obiettivi abbiamo quando utilizziamo dei risparmi e li investiamo? Cioè, che cosa servono i soldi di Marco dati dai nonni? Perché vengono investiti? Perché comunque fa delle domande ben precise Marco, chiedendo già di piattaforme, parla di azioni, esatto, quindi singoli strumenti finanziari, quindi secondo me oggi è importante prima di tutto anche capire che cosa si vuole fare dei propri soldi, il perché investo i soldi, utilizzo i risparmi che poi possono essere i risparmi di una vita, di nonni o i propri risparmi, e quindi ogni investimento deve essere fatto per obiettivi e quindi capire, dare delle priorità ai propri obiettivi e quindi capire che cosa è importante nel corso della propria vita, che poi possono essere obiettivi finanziari, obiettivi previdenziali, cioè importante magari la propria pensione che capiterà tra X anni, oppure obiettivi, voglio comprare la casa tra X anni o la macchina nuova tra due anni, tre anni. Quindi quello è importante perché ogni investimento è sempre finalizzato agli obiettivi. Tra l'altro la domanda che ha anche degli aspetti, se vogliamo, di tenerezza e di ingenuità da parte di Marco, ci descrive un atteggiamento che è ancora largamente diffuso. Provini, e lei lo saprà molto bene come funziona fra i risparmiatori che le vengono a chiedere la sua consulenza, ancor prima di raccontare di che cosa hanno bisogno oggi, domani e in prospettiva, chiedono subito quanto mi renderà il potenziale prodotto che lei mi suggerisce. Voi sappiamo che come consulente finanziario indipendente non ne suggerite direttamente soluzioni di investimento, ma fate più uno screening al risparmiatore e gli dite: devi muoverti in un senso piuttosto che in un altro, devi fare un'assicurazione piuttosto che un fondo di investimento, senza dare nomi specifici appunto di prodotti. Però appunto, tornando al caso di Marco, è una questione ancora largamente diffusa. Prima parliamo di quanto mi rende un prodotto, ancor prima di spiegare quali sono i miei bisogni. Vi capita ancora di confrontarvi in questo modo con la clientela? Lei ha toccato un punto fondamentale. È vero che ognuno si avvicina. Quanto mi rendono i miei soldi? No, il lavoro è a base, cioè cerchiamo sempre di noi consulenti di affiancare il risparmiatore, la famiglia, l'imprenditore, nel cercare di assisterlo, nel cercare di consigliarlo per una corretta pianificazione del proprio patrimonio e quindi cercando di realizzare una pianificazione che può essere finanziaria, patrimoniale, assicurativa, previdenziale, addirittura successoria di tutela patrimoniale. E quindi l'obiettivo del rendimento di un investimento, quello viene dopo, perché prima bisogna fare una corretta pianificazione del proprio patrimonio e anche lì poi è la scelta degli strumenti finanziari che sono adatti o meno agli obiettivi, quello è fondamentale, fare una selezione. Allora, dobbiamo fermarci un attimo perché è il momento delle informazioni sulla viabilità, ma prima, come ogni giovedì, c'è la possibilità di ricevere un omaggio da parte nostra. Ci dovete dare la risposta esatta chiamando 800 24 0024. Il domandone è facile facile oggi. C'è stato un altro sbarco in borsa negli Stati Uniti. Direct listing, cioè direttamente senza iniziale IPO. Public offerta pubblica. La società si chiama Traffico. Potete tranquillamente andare a lavorare nei vostri uffici, ma raggiungeteli con i mezzi pubblici, non mi potete intasare di nuovo la tangenziale. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno. Mi avete rotto le balle con sto traffico. Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non mi intasate la tangenziale con le vostre macchine. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Due di denari. Il mio fruttivendolo c'ha il Ferrari perché ha detto che la verdura frutta. Gianmarco Ferronato, perdona, questa la teniamo per annunciare i mercati poi nei giorni successivi, anche per questo mese del risparmio. Io invece devo riepilogare e ricordarvi il domandone di oggi. Vi ricordo che accettiamo le risposte solo se chiamate 800 24 00 24. Il domandone oggi è facile facile: come si chiama quella società che ha testé debuttato in borsa negli Stati Uniti? È andata anche molto bene, lo ha fatto col direct listing, ne abbiamo parlato per tutta la puntata, si chiama... Eccolo là. Mi parte l'editoriale, Mauro. No. Vabbè, adesso qua ci vuole, perché io poi leggo la domanda dell'ascoltatore, naturalmente interpellerò anche Emanuele Provini su questo commento, ma prima voglio dire la mia. La domanda del giovane Marco, spiega l'ascoltatore che ci scrive su WhatsApp, è semplicissima e voi come al solito non rispondete. Lui vuole incrementare i 2000 euro, vabbè, spegniamo la radio. Noi la salutiamo con piacere, se vuole spegnere la radio, non stiamo qui a dare suggerimenti di investimento, sollecitazione al risparmio e all'investimento non possiamo farne, in primo luogo perché è vietato, in secondo luogo perché non ci possiamo mettere nelle vesti di una persona che ha bisogni diversi dai nostri e che probabilmente deve fare in modo che quel denaro raggiunga certi obiettivi, come ha detto Emanuele Provini, che non sono i nostri. Ma soprattutto la cosa che vogliamo fare è scoraggiare Marco dall'avventurarsi su piattaforme di trading online, perché lì ci sono solo i trader professionali che studiano giorno e notte i segnali e come funzionano queste piattaforme, che sono difficilissime. Se avete sentito bene anche la nostra radio nel corso della giornata, mandiamo in onda la pubblicità di colossi di trading che devono, sono obbligati a dire dalle autorità europee, la maggior parte degli investitori che investe su questi titoli sono, nel fattispecie, i CFD, contratti per differenza, non li sappiamo neanche spiegare tanto sono complicati, sono obbligati a dire che nell'oltre l'80% dei casi il piccolo risparmiatore, il piccolo investitore fa un investimento che perde. Quindi, più chiaro di così, noi non diremo mai investi su questo e ci guadagni. L'unica cosa che io posso dire per la mia sensibilità è che Marco potrebbe custodire per un po' questo denaro in attesa di capire bene che obiettivi farsi in un piccolo libretto dei risparmi, in uno strumento molto semplice. Questo è forse lo strumento più basilare. Emanuele Provini, abbiamo tanti strumenti che possono, anche dei simulatori in realtà di trading, se proprio uno volesse misurarsi, dove però non si rischiano i soldi, si fa un po' per finta, è così. Certo, certo, quello sicuramente. Io vorrei ringraziare per le parole di Deborah, che è stata molto precisa, perché noi stiamo cercando di dare una risposta a Marco e cercando di aiutarlo, perché è Marco che secondo me deve capire alcune cose, deve conoscerle, perché parlare di trading o parlare di investimento sono due cose completamente differenti, perché poi Marco nella sua domanda parla di avventura, perché fare investimenti non vuol dire fare delle avventure, ma vuol dire fare una pianificazione corretta. Per, se posso parlare di piattaforme, nel momento in cui si utilizzano delle piattaforme per investimenti, ci sono le piattaforme bancarie che lavorano sui mercati regolamentari normalmente, quindi dipende solo che cosa si vuole utilizzare per che cosa, perché poi Marco nella sua domanda ha parlato solo di azioni, ma l'importante è, sa che cosa sono le azioni e quali rischi hanno le singole azioni? L'importante è conoscere prima di fare delle cose, quello è fondamentale. È a dimostrazione del fatto, prego, che molti Deborah, ascoltatori non hanno capito quello che ho detto, insistono, ci potete suggerire una piattaforma dove possiamo investire in azioni anche ad alto rischio, che sia un'applicazione intuitiva e a basso costo? No, noi neanche morti vi daremo il nome di un bel niente da questo punto di vista, state lontani da questi strumenti per cortesia. Tra l'altro, ecco, Emanuele Provini molto sinteticamente, molto garbatamente ci ha ricordato che questo tipo di investimenti è complicato, cioè uno dice voglio investire in azioni, benissimo, già ci sono tanti tipi di azioni, poi bisognerebbe sapere, stai parlando di investire in azioni quotate o in azioni non quotate, perché le azioni non quotate sono meno trasparenti, magari sono anche di migliore successo, ma sono spesso illiquide, cioè non, quando uno vuole uscire purtroppo deve aspettare perché la società non può in quel momento pagare il suo socio. Insomma, Emanuele, chiariti gli obiettivi di investimento, serve un pochino probabilmente di confronto anche forse con il portale dell'educazione finanziaria, mi viene da dire, quello che conta.gov.it, per farsi un'idea di tutti gli strumenti, del panorama degli strumenti di investimento. Guarda, è fondamentale perché è da tantissimi anni che cerco di dare educazione finanziaria ai clienti, potenziali clienti, alle persone, ai risparmiatori in generale, alle famiglie. Io sono anche educatore finanziario, che sono iscritto presso l'Associazione Italiana Educatori Finanziari, quindi è sempre mio obiettivo dare informazioni sempre maggiore, perché mi piace confrontarmi con i risparmiatori e quindi è molto, fa molto piacere dare comunicazione. Quindi è fondamentale, prima di fare qualsiasi attività finanziaria, assicurativa, previdenziale, sapere che cosa si acquista. Quando si va a fare un qualsiasi acquisto, si sa che cosa si acquista e quindi è fondamentale per quello. Tra l'altro stavo pensando anche per un graduale approccio ai mercati finanziari. Magari Marco potrebbe prendere questo piccolo salvadanaio e cominciare piano piano ad investire una piccola cifra, posizionandosi sui mercati, cercando un consulente che gli spiega bene che cos'è un piano di accumulo. E quindi ridurlo gradualmente questa cifra e così prendere confidenza con i mercati con questa modalità, se questa può essere in prospettiva anche una sua passione, un suo interesse. 10 secondi, Provini, purtroppo che stiamo chiudendo. No, quello sicuramente, quello potrebbe essere una buonissima idea, però anche capire poi Marco se vuole, la sua intenzione è quello poi di andare a quali strumenti finanziari in funzione della rischiosità, perché può essere un titolo di Stato, un'obbligazione diversa, certo, da un'azione, oppure, dato che avete parlato di piattaforme di trading, tante piattaforme lavorano su dei contratti derivati, non sui singoli strumenti finanziari. L'abbiamo detto prima. Grazie, esatto. Emanuele, ci ritorneremo, stiamo chiudendo. A chi diamo la parola per la risposta al quizzettone? Diamo la parola a Paola da Torino. Qual è la società? Buongiorno a tutti, sì? Palantir. Complimenti. E a Paola mandiamo investire facile anche nei momenti difficili. Se ha un attimo di pazienza, perché usciamo il 10 di ottobre con il nostro libro, glielo spediamo volentieri. Grazie, grazie a tutti, grazie ad Emanuele Provini. Senti, io mi prendo un weekend lungo, se non sì, ti dispiace, so, torno lunedì. Da parlare di bollette me le lasci da pagare a me. Vabbè, ci sentiamo domani. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.